Per la TV si parla di tempi che vanno di switch off da fine 2008 per alcune regioni al 2012 per tutta l'Italia. Per la radio, come è noto, non c'è una data di switch off e la MF continuerà a esistere, però noi ci auguriamo che i tempi siano possibilmente più ravvicinati di quelli della TV. E questa è una bella speranza, speriamo che i tempi vengano accelerati per il passaggio al digitale, anche se non si tratta di un passaggio così come avviene per la televisione, che spegnerà presto, in alcune regioni è già accaduto, in alcune zone d'Italia è già accaduto, spegnerà le frequenze analogiche per passare una volta per tutte al digitale. Per la radio sarà un po' diverso, come ha spiegato sempre al microfono di Gigi Donelli Marco Rossignoli, che è vicepresidente dell'Associazione per la Radiofonia Digitale in Italia. Nel settore televisivo abbiamo uno switch off, inteso nel senso che chi oggi trasmetterà in digitale lo farà sulle stesse frequenze che utilizza in analogico, quindi per trasmettere in digitale bisogna cessare la trasmissione analogica. Nel comparto radiofonico non esiste lo switch off, in quanto le trasmissioni digitali avverranno su frequenze completamente diverse rispetto a quelle sulle quali oggi si trasmette in analogico. Questo significa in concreto che mentre inizieranno e proseguiranno le trasmissioni digitali, allo stesso tempo continueranno le trasmissioni analogiche sulle frequenze di cui un soggetto è concessionario, di cui è anche titolare, con i relativi valori di avviamento. E questo avverrà, per moltissimi anni. La normativa non pone alcun limite e certamente sarà una scelta che dipenderà dalla scelta degli editori e anche dalla scelta dell'utenza. Potrei paragonarla a quello che è accaduto nel rapporto tra la modulazione di frequenza e la modulazione di ampiezza, cioè le onde medie sono state soppiantate dall'FM, ma alcuni trasmettitori onde medie sono stati dismessi proprio in questi ultimi anni, dopo circa 30 anni dall'avvento dell'FM. Credo che il rapporto tra modulazione di frequenza e evoluzione digitale sarà esattamente negli stessi termini. Ecco, è stato un percorso molto lungo quello della radio digitale. Quale ostacolo c'è ora tra, diciamo, la giornata di oggi e la vera trasmissione dal punto di vista dell'utente? Io credo che sono stati oggi molti dei problemi potrebbero essere in discesa, perché gli ostacoli di questi anni erano soprattutto nella difficoltà di poter realizzare un sistema che fosse appunto una evoluzione dell'analogico, perché la tecnologia DAB non permetteva assolutamente questa possibilità. C'era la possibilità di transitare al digitale per circa 6 radio nazionali e un centinaio di radio locali, quindi un numero esageratamente inferiore rispetto agli attuali operatori, che avrebbe rappresentato sostanzialmente la falcidia, la soppressione dell'attuale sistema analogico, e quindi non era accettabile nel complesso. Questa è la ragione principale per la quale il sistema non è andato avanti. Oggi con le nuove tecnologie questo problema è quasi completamente superato, si tratta di adattare ovviamente le problematiche che nascono dalle nuove tecnologie con nuove norme, quindi deve essere fatta la nuova regolamentazione, quindi mi riferisco al piano delle frequenze e al regolamento per il rilascio delle licenze, che sono atti che rientrano nelle facoltà dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, a cui sono demandati per legge. Quindi, fatto questo, potranno essere rilasciate dal Ministero delle Comunicazioni le licenze e quindi procedere a un sistema a regime. È importante, lo ripeto, che il sistema venga diffuso in maniera regolamentata fin dall'inizio, per evitare che nel sistema digitale si possano riproporre gli stessi problemi che hanno portato alla nascita della radiofonia 30 anni fa.